Buonasera a tutti, inizia Zardis Magnetics, programma che va in onda in diretta radiofonica ogni giovedì qui dagli studi di Radio Onde Furlane fino alle ore 21.30, ma andiamo subito con la sigla di questa trasmissione. Bene, questa era la sigla d'apertura per questo programma che è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane dalle ore 20 alle 21.30, anche oggi 8 maggio 2025. Siamo qua e ricordo che il programma va in onda grazie all'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste. Vabbè, ho già detto che Radio Onde Furlane trasmette da Udine, eccetera, eccetera. E ora andiamo all'ascolto di questa band italiana, storica del punk, appunto, diciamo nostrano. Sono di Ferrara, loro storici Impact, e noi ascoltiamo dei brani presi da un album che era uscito nel 1995, comunque un album, un LP compilation che all'interno vi era tutte le loro uscite su cassetta e vinile, edite tra l'82, cioè tra il 1982 e il 1985, Impact da Ferrara. We'll be right back. maledette fece tricolori. Non possiamo che esordire così con l'intervento in voce di oggi, giovedì 8 maggio 2025, Zardins Magnetics, trasmissione autogestita che è ospitata dalla radio, da Radio Onde Furlane di Udine. Allora, beh, un po' tutti sappiamo, perché appunto anche la RAI ha dato notizia chiaramente di questo scampato omicidio di massa, diciamo, a Pantelleria, durante un allenamento della pattuglia delle Fece Tricolori. C'è stato questo, cioè due robe, ci sono stati due incidenti praticamente, due aerei che si sono toccati e un terzo che si è schiantato, no? Quindi naturalmente la notizia fondamentale che è stata data è stata quella di questo pilota di 32 anni che è stato ferito, chi se ne frega, e poi la sindaca di Pantelleria che ha elogiato l'aeronautica militare per l'intervento tempestivo. Allora, questo evento, insomma, che poteva finire in strage, non è comunque una novità, no? Per le sì, per le Frecce Tricolori, qui ne sappiamo qualcosa perché purtroppo sono di stanza qua in Friuli, appunto a Rivolto, e ricordiamo ancora in questo 2025, poi magari facciamo un minimo, io volevo ricordare un minimo le date salienti delle malefatte delle Frecce Tricolori, perché vabbè, perché nel 2023, che era il centenario, le avevamo ricordate anche come così assemblea contro sabotiamo la guerra. E allora questa pattuglia, insomma, acrobatica, chiamiamola così, il 4 di maggio ha fatto la sua parata anche a Catania. E appunto anche qua, insomma, una roba, un delirio. E io sono andata a cercare un po' sul blog del coordinamento, diciamo, contro la militarizzazione delle scuole, perché che è un blog democratico, diciamo, però che contiene un sacco di notizie, no? Perché appunto è un blog che si occupa, vuole contrastare la militarizzazione che è in campo a tutto spiano in questi ultimi anni dentro le scuole, e quindi è estremamente documentato, e appunto segnalava questo discorso della parata di Catania, e dava anche dei numeri. Il costo di una parata stile 2 giugno è di 2 milioni di euro, e l'attività delle Frecce pesa per l'1% sul bilancio dell'aeronautica militare. E sì, si ricorda anche che le spese militari in Italia nel 2025 ammontano a 32 miliardi di euro, dei quali 13 miliardi per nuove armi, e c'è stato un aumento del 12% in spese appunto militare in 10 anni. Che cosa va evidenziato anche? Che questo tipo di manifestazioni a Pantelleria, come a Catania, ma come ovunque dove ci sono queste parate, vengono utilizzati gli aeroporti civili, no? Vengono utilizzati gli aeroporti civili, poi facciamo magari un collegamento anche con la Leonardo, no? Di Tessera. E, nello specifico a Catania, durante questa parata, questa esibizione, l'aeroporto civile è stato temporaneamente sospeso nelle sue attività per un'ora e passa, che ti dà l'idea appunto della estrema pericolosità, insomma, di queste operazioni. Però non è finita qua, e sempre nel 2025, in marzo, le Frecce Tricolori hanno fatto un saluto sui cieli di Trieste all'Amerigo Vespucci, appunto, quindi nave militare, e il 26 marzo sono andati a Ghedi, provincia di Brescia, per la festa dei giovani. Quindi hanno fatto questa ennesima, insomma, esibizione a Ghedi, però ricordiamo che a Ghedi sono depositate bombe atomiche di ultima generazione, quindi il pericolo era anche legato a questo discorso degli ordigni atomici. La manifestazione di Ghedi si titolava "Proteggiamo ciò che ami, AM, aeronautica militare". E quindi, insomma, l'obiettivo di queste manifestazioni, di questa manifestazione, era anche quello di arruolare i giovani, no, nell'aeronautica militare, quindi con questa diabolica promessa di protezione nel momento in cui, appunto, in realtà mette questo tipo di acrobazie di morte, appunto, mettono a repentaglio la vita dei servi volontari che vanno ad assistere a queste manifestazioni. Tocca dire che sono servi volontari, perché purtroppo si vedono bagni di folla, no, di fronte a queste manifestazioni, che sono spaventose. Cioè, diciamo che dovrebbe essere abbastanza una cosa di istinto di sopravvivenza boicottare e disertare questo tipo di spettacoli di morte. Invece, purtroppo, vediamo che, diciamo, la manipolazione delle coscienze e il livello di indottrinamento è talmente elevato da portare veramente masse consistenti di persone a, forse inconsapevoli, cioè che non si rendono conto, pensano di essere magari in un filmino sul cellulare, e invece Top Gun appunto, invece sono lì e potrebbero cadergli i caccia nella capoccia. In questa roba di Ghedi, questi stronzi bastardi hanno anche fatto una raccolta di fondi per l'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma. Quindi, come poi, insomma, sì, diciamo molte volte, c'è tutta questa commistione di violenza di Stato estrema e di buonismo, pseudo buonismo, buoni sentimenti, insomma, cose di questo tipo. E un'ulteriore notizia che abbiamo ricavato da questo blog, appunto, contro la militarizzazione delle della scuola, Osservatorio, esatto, è una cosa abbastanza incredibile, cioè una propaganda che viene fatta attraverso, utilizzando le frecce tricolori, addirittura nelle scuole primarie. Parliamo di una scuola di Viterbo dove praticamente ai bambini sono stati dati delle fotocopie con dei disegni col volo, appunto, delle frecce tricolori, per imparare i suoni trisillabi fra, cra, tra, eccetera, fre, cre, tre, avanti, no? E quindi, cioè, addirittura utilizzare come veramente, cioè, io ho una certa età, cioè mi ricordo, diciamo, quando ero io alle elementari, che c'erano delle, come posso dire, dei rimasugli di ventennio, secondo me, nelle scuole elementari. Ti facevano imparare delle robe coi rimasugli del ventennio, e comunque sullo stato, anche con, insomma, glorificando in pieno lo stato confessionale e tutto quanto, Democrazia Cristiana, eccetera. Però sì, ti facevano cantare robe equivoche, insomma. Ed eravamo all'inizio, proprio i primissimi anni 70, ma perché, appunto, magari in provincia ancora non era arrivato, diciamo, così, la ventata del 68 non era ancora arrivata. Ma però questa fotocopia, appunto, con le frecce tricolori, il tricolore, loro che volano, e questi esercizi trisillabi, io sinceramente, cioè, nemmeno la mia maestra catofascista non è mai arrivata a questi livelli. E quindi siamo proprio di fronte a una militarizzazione grave di tutti gli spazi civili e sociali. Allora, nominavo prima il centenario delle frecce tricolori, dico, insomma, avete capito, e era proprio il marzo 2023, perché, appunto, la Regia Aeronautica ha fondato questa compagnia, questa banda di volatili, di volatili meccanici, nel 1923. In quell'occasione, nell'occasione del centenario, a Udine avevano fatto una mostra in una chiesa sconsacrata, la chiesa di San Francesco, una mostra che appunto voleva glorificare, no, l'azione di questa compagnia di velivoli militari, di questa pattuglia acrobatica nazionale denominata Frecce Tricolori. E così in questa chiesa hanno fatto questa mostra dove si poteva addirittura i visitatori potevano sperimentare il visore Oculus, e appunto per dare la possibilità, leggo direttamente dal volantino, di dare ai visitatori di vivere la sensazione e l'emozione di essere un pilota delle Frecce Tricolori. Però in quell'occasione avevamo fatto questo volantino che poi ha avuto una piccola diffusione, diciamo, non è stato molto così. Vabbè, non ha avuto molta risonanza, ma non importa, è stato fatto perché bisognava farlo, e perché appunto qui eravamo nell'ottobre del 23, il 12 ottobre, ma pochi giorni prima, il 16 settembre del 23, è successo all'aeroporto civile di Torino Caselle, va ricordato, che un velivolo della pattuglia acrobatica si schianta poco dopo il decollo in una strada nei pressi dello scalo, uccidendo una bambina di 5 anni che era a bordo di un'auto di passaggio insieme alla famiglia. E appunto le Frecce Tricolori partivano da Torino per una esibizione celebrativa per il centenario dell'aeronautica militare, che doveva svolgersi nei cieli di Vercelli, per poi ripetersi a Torino il 17 settembre. Anche questa roba, questo abominio, questo assassinio di Stato è stato... praticamente poi non se n'è più parlato in seguito. E però dobbiamo anche ricordare altri episodi gravi. Beh, intanto bisogna ricordare Rammstein, il 28 agosto 1988, e nell'air show Flugtag, nella base NATO di Rammstein, al confine tra la Germania e la Francia, tre frecce precipitano sul pubblico che assisteva alla manifestazione, provocando 70 morti e 346 feriti. E poi il 25 aprile del 1970, andando a ritroso, a Rivolto, Udine appunto, un vagone volante dell'aeronautica militare precipita subito dopo il decollo e si incendia, esplodendo in un campo a pochi metri dalla strada statale Pontebbana. Per un caso nessuna auto era in transito in quel momento sulla trafficatissima strada, così muoiono solo, tra virgolette, i 17 militari. Ecco, cosa possiamo dire? Aggiungere a queste cose, insomma, sono cose di cui abbiamo parlato tante volte, ma è importante ribadire che le forze armate e in generale le forze dell'ordine uccidono e anche abituano al fatto che queste uccisioni sono ineluttabili, cioè sono praticamente effetti collaterali. E in più, cioè, quindi le vittime civili della militarizzazione della società sono degli effetti collaterali. In più, praticamente uccidono in nome della sicurezza. Ci dice Crosetto, no? Le acrobazie di morte delle frecce portano all'addestramento delle forze armate, il valore aggiunto della prontezza e dell'abilità. Crosetto, ricordiamo che oltre a essere ministro della difesa è ex amministratore delegato di Leonardo, e lui si dice fiero di questa eccellenza italiana, simbolo dell'italianità in cui tutti i cittadini si riconoscono e di cui tutti vanno orgogliosi. Ecco, invece no, assolutamente noi non ci consideriamo cittadini, assolutamente, ma comunque non tutti i soggetti viventi e senzienti sono orgogliosi e si riconoscono in questa maledizione delle Frecce Tricolori. certezze che trovano senso solo nella merce. Sogno, rivolta. Sogno, imperfezione. Sogno, rivolta. Sento la terra crollare sotto i piedi. Non è niente. Un saluto a tutti e tutte anche da parte mia, un saluto sicuramente a chi ci ascolta via etere in diretta qui da Udine dintorni, in streaming da ovunque sia disponibile una connessione e chi ci sta ascoltando sulle web radio che ci ospitano di venerdì. Radio Eustachio e Radiazione. Io per questa sera semplicemente mi aggancio a quanto già detto da poco fa e così mi applico un po' sul Leonardo di nuovo, cioè di nuovo colgo l'occasione, passiamo dalle frecce tricolori, quindi dalle così dai agli apparati militari dello Stato, passiamo agli apparati industriali, bene o male, del capitalismo italiano. Una baggianata a cui forse non sempre si pensa, dico baggianata perché non è che cambi granché, comunque va ogni volta, secondo me, ricordato che il velivolo che viene utilizzato in questi anni dalle frecce tricolori è comunque un modello attualmente Alenia Aermacchi del gruppo Leonardo. Vengono fabbricati nella zona di Varese, non solo, anche se si tratta comunque di un sì, di una, così, un modello un po' fuori dal, non è più allo stato dell'arte come dicono loro, diciamo, e risale alla metà degli anni 70 la concezione di quell'aereo lì. Comunque è vero che loro lo usano per le cosiddette acrobazie, ma io sono sicuro, a parte che è armato comunque, no? Ma comunque è un aereo, quello lì, concepito per l'anticarro, ecco, oltre che per l'addestramento, anche per l'anticarro, è adeguato, diciamo, per i voli a bassa quota, è fornito di, insomma, tutto quello che serve, anche per la ricognizione e ovviamente per l'attacco, ecco, dei nemici, delle minacce, eccetera eccetera. Quindi il gruppo sempre Leonardo, perché ormai in Italia sì, è questo, diciamo, sotto tutto questo, è tutto sotto quello che c'è in Italia, è tutto sotto quello che si produce in Italia nel settore difesa, bene o male sotto il marchio Leonardo. Che Leonardo, forse l'abbiamo già detto, nel caso lo ripetiamo, all'inizio marzo è stato concluso dal manager, insomma, della Leonardo, Cingolani, una collaborazione che riguarda la produzione di droni, che riguarda non si sa bene cosa, perché comunque sono notizie segreta, sì, sotto segreto, ma è stato fatto una come si chiama, joint venture con Baykar, che è una, la Baykar è una un colosso del settore della produzione dei droni mondiale, insomma fornisce vari eserciti, è impegnato in questo momento in maniera massiva nel rifornire l'esercito, sia le forze armate ucraine contro, sul fronte contro la Russia, ma è in dotazione anche al, oltre che a uno dei più potenti eserciti NATO, che è quello turco, anche e anche a tutte le forze dell'ordine, cioè e anche alle forze dell'ordine. Comunque sappiamo bene, la Turchia ha all'ordine del giorno la questione curda, quindi ci sono dei gruppi armati ancora nell'area meridionale della Turchia, quindi lì vengono, sono da anni che comunque c'è, vengono utilizzati anche questi droni. I droni della Baykar sono stati utilizzati anche in Libia, perché c'è uno dei due governi che è appoggiato dalla Turchia, adesso a memoria non mi ricordo più quale dei due governi, sì, uno è, sono tutti e due, diciamo, senza entrare adesso nella controversia, comunque sono tutti e due come si chiama, delle figure militari, due colonnelli, diciamo, uno contro l'altro, uno ha alleato, non so, un'area, diciamo, non so chi adesso, inutile dirlo. Ecco, uno dei due appunto è appoggiato da Turchia e ha in dotazione i droni della Baykar. Questo vuol dire che se Leonardo ha concluso questa joint venture, succederà quello che è già successo con la, recentemente con la Rheinmetall tedesca per la realizzazione e produzione di sostanzialmente di un modello molto avanzato del carro armato pesante della Rheinmetall, con dotazioni, diciamo, sensoristica e quant'altro di Leonardo. Invece la stessa cosa, stesso discorso succederà per i droni. Leonardo diciamo a denti stretti, ma ammette di essere un po' a rincorrere sul settore droni, e nelle parole di Cingolani. Però appunto la svolta è arrivata questo marzo, questo 6 marzo, con questo colpo di scena, con il, appunto con la conclusione di questo accordo con tra l'altro questo colosso Baykar è nient'altro che di proprietà di Erdogan. Quindi si rimane molto concentrati sui vertici, ecco, dello Stato turco. Questo era di marzo. Più recente, 30 aprile, la cosa è stata sancita, diciamo confermata, consolidata in un vertice intergovernativo Italia-Turchia, dove sono stati firmati anche, tra gli altri, accordi che riguardano anche la realizzazione di una dorsale digitale e sviluppi di delle comunicazioni, comunque anche ci sarà, insomma, varie sono state fatte varie mosse in questa direzione, la direzione della collaborazione tra Italia e Turchia. E appunto è anche questo tra Leonardo e Baykar per sviluppo di droni e come ho detto prima per il digitale invece Team Sparkle e Turkcell. Ma noi andiamo a vedere cosa si dice in questo accordo per la difesa, Erdogan dice: continueremo a rafforzare la nostra cooperazione. 30 aprile, l'ho detto, a Roma, no? L'incontro tra Meloni, Erdogan e altri, diciamo, vice ministri e vice ministri. Continueremo a rafforzare la nostra cooperazione con l'Italia nell'industria della difesa, che ha compiuto progressi significativi con nuove partnership e progetti, ha sostenuto Erdogan nelle dichiarazioni alla stampa al termine del vertice Italia-Turchia che si è tenuto a Villa Panfili a Roma. Quello fra Italia e Turchia, ha spiegato Meloni, è chiaramente una cooperazione a tutto campo, lo dimostrano le molte intese a livello governativo che abbiamo firmato questa mattina e gli accordi sottoscritti durante il Business Forum, il Borus e il Forum di Dialogo Imprenditoriale. Allora, apripista alle future collaborazioni tra Italia e Turchia è l'accordo, cioè l'accordo dell'azienda dei droni guidata da Selçuk Bay Raktar, genero del presidente Erdogan, che lo scorso marzo ha siglato un coso d'intesa, non mi viene, loro usano MOU, è un'intesa con Leonardo per la creazione di una joint venture per i sistemi aerei senza pilota, un unmanned, dopo l'operazione di acquisto su Piaggio Aerospace della stessa Baykar. Nello specifico, che poi comunque Piaggio era avversaria, non è del gruppo Leonardo, ecco, e quindi è stata acquistata da Baykar. Piaggio Aerospace. Nello specifico la joint venture potrà contare sulle infrastrutture industriali di Leonardo, come il sito di Ronchi dei Legionari, specializzato in piattaforme UAS, UCAS. Allora, UAS sono i sistemi di aeromobili senza equipaggio, UCAS, sistemi di aeromobili senza equipaggio da combattimento. Quindi nel sito di Ronchi dei Legionari, provincia di Gorizia, e quello di Grottaglie, a esempio per la manifattura di materiali compositi, ma anche l'assemblaggio finale. Grottaglie in Puglia, mi sembra, oltre che sulle risorse produttive di Baykar, inclusi gli stabilimenti di Piaggio Aerospace in Italia e altri siti industriali all'estero. Va bene, loro dicono qua, la Meloni dice che questo accordo per, in realtà non è una, come dice lei, la nazione non ci rimette perché entrambi i soggetti valorizzeranno i rispettivi punti di forza, come dire che Piaggio era uno scartino, non era un punto di forza, tradotto, e aprire nuove opportunità di mercato in Europa, e sottolinea, cioè anche questa è da capire l'antifona, quindi una aggressività, diciamo, del gruppo Leonardo, il gruppo italiano sul mercato della difesa italiana. Ecco, e poi ci sono tutte queste altri accordi, Team Sparkle, Turkcell, per sviluppo di, sì, no, si intende, non l'ho detto prima, non si parla di software, ecco, si parla di un cavo sottomarino, un nuovo cavo sottomarino da Izmir, capace di trasportare oltre 25 terabyte per secondo per coppia di fibre ottiche, integrato nel sistema BlueMed di Sparkle e i suoi gateway di Creta e Milano. Noi, a nostra insaputa, il mar Mediterraneo soprattutto è intessuto di cavi, di anche altre cose, ma anche di cavi, appunto, per le connessioni che sono così green, così asettiche. In realtà sono fatte di fatica, di tubi piantati sul fondo del mare. Mm. Sì, no, poi avevo visto anche c'è un altro accordo per sviluppo delle comunicazioni portuali e anche ferroviarie e altre questioni relative a facilitare l'approccio delle aziende italiane che vogliono andare in Turchia a fare affari. E questo in sostanza. Io direi che questo primo intervento può essere concluso. E volevo dire che stiamo ascoltando questa band statunitense di Portland, le Arum Scarum. Questo è il loro primo diciamo 12 pollici, si chiama Mental Health ed era uscito nel 1999, band comunque che si è formata, che ha avuto una durata di quasi 10 anni a cavallo appunto tra la fine degli anni 90 e inizi 2000, mentre prima avevamo ascoltato una band italiana, in Zona d'Ombra, dal loro album Unica Dimensione di Vuoto. Comunque rimaniamo all'ascolto delle Arum Scarum. Thank you. to prison, wait for the chair, and get the hell off this planet full of evil and your corruption in these courtrooms. Sì, siamo sempre su Zardins Magnetics. Allora, diciamo la secondo così argomento che avevamo pensato per questa serata era quello di una critica al modello umanitario. Per chi ha ricevuto la promozione della trasmissione, citavamo il titolo di un articolo, di un intervento di una giornalista e scrittrice indipendente, Ramona Vadi, che suona così: il modello umanitario è mortale quanto il genocidio. E Ramona Vadi ha studiato anche, oltre che appunto le perversioni, diciamo, del modello umanitario, anche tutte le connessioni tra lo Stato di Israele e i vari stati dell'America Latina, stati che diciamo hanno, dopo la fine del nazismo, hanno ospitato, accolto Paraguay, Argentina, eccetera, Cile, hanno accolto appunto nazisti e fascisti che scappavano, no? Che si sono rifugiati là, diciamo dopo la fine del secondo conflitto mondiale, per sfuggire ai tribunali internazionali, eccetera. E nonostante ciò, appunto, Israele si è alleata con questi stati per, intanto ha fornito da sempre armamenti a queste dittature militari, ma si è proprio alleata perché aveva in mente questo progetto di deportazione di massa dei palestinesi in questi paesi. Cito solo questo: il Paraguay, e dopo il 67 appunto c'era questa idea di deportare un numero tipo 60.000 palestinesi in Paraguay, appunto per dare vita al progetto sionista, però questa alleanza, insomma questo progetto, è fallito in quanto due palestinesi hanno ammazzato l'impiegata dell'ambasciata di Israele in Paraguay nel maggio del 70, e quindi questa roba qua ha fatto un po' tremare, diciamo, le vene dei polsi, e quindi non se ne è fatto più niente. Cioè, probabilmente non solo questo fatto, ma questo fatto comunque ha dato l'idea che non sarebbe che questo trasferimento forzato, questa deportazione non sarebbe stata così pacifica, diciamo. Ma torniamo al modello umanitario. Allora, Ramona Vadi ci dice: come Israele cancella i palestinesi da Gaza nel suo depravato genocidio, la comunità internazionale potrebbe risparmiarci tutta la sua retorica ipocrita di preoccupazione, profonda inquietudine, deplorazione e catastrofe, tutti termini tra virgolette appunto. La comunità internazionale è comodamente adagiata nella sua complicità e il paradigma umanitario non è altro che una sua facciata. E poi ci dice: secondo Jonathan Whitehall, il capo facente funzioni dell'ufficio per il coordinamento degli affari umanitari nei territori palestinesi occupati, citiamo letteralmente, come operatori umanitari non possiamo accettare che i civili palestinesi siano disumanizzati al punto da essere in qualche modo indegni di sopravvivere, e la sopravvivenza delle persone dipende da un sistema di aiuti che è esso stesso sotto attacco. E ci dice Ramona Vadi: l'affermazione non è del tutto corretta. La sopravvivenza delle persone dipende da un cambiamento nella politica che alla fine renderebbe gli aiuti umanitari realizzabili a causa della loro natura temporanea, come originariamente pianificato. Gli aiuti umanitari non possono competere con il colonialismo e il genocidio, non possono nemmeno livellare la discrepanza tra la violenza e le sue ripercussioni e l'alleviamento del dolore perpetuo. Ciò che Gaza ha vissuto e vive va oltre le difficoltà. Solo la retorica internazionale ha reso Gaza gestibile in termini di aiuti umanitari, il che a sua volta ha concesso a Israele ulteriore spazio per colonizzare tramite genocidio. Gli operatori umanitari potrebbero non accettare la disumanizzazione. Israele infatti ha preso di mira molti operatori umanitari a Gaza, ma gli operatori umanitari fanno parte di un sistema che dipende dalle atrocità, persino dal genocidio, per funzionare, perché questo è ciò che la comunità internazionale ha stabilito. Gli aiuti umanitari non salveranno i palestinesi dall'essere fatti saltare in aria dalle bombe, come minimo, e dato il contesto del genocidio, nutriranno i palestinesi fino a quando la prossima bomba non li ucciderà. Le lamentele della comunità internazionale sul rifiuto di Israele di far entrare gli aiuti umanitari a Gaza non hanno nulla a che fare con i palestinesi e tutto a che fare con la politica di complicità del genocidio. Dal momento che la comunità internazionale ha tacitamente accettato il genocidio e non è ancora pronta ad ammetterlo apertamente, deve continuare la sua farsa attraverso il modello umanitario. Salvare vite per poi ucciderle o lasciarle uccidere ha il suo macabro posizionamento in un mondo che produce armi e fa affidamento su di esse per predominio. La Germania, che è il più grande fornitore di armi per Israele dopo gli Stati Uniti e il principale fornitore nell'Unione Europea, ha donato 45 milioni di euro all'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'impiego dei rifugiati palestinesi nel vicino Oriente, UNRWA, a marzo di quest'anno. Il commissario dell'UNRWA, Philip Lazzarini, ha espresso gratitudine per la solidarietà della Germania con l'UNRWA, applaudendola come prova del suo impegno nel contribuire allo sviluppo umano dei rifugiati palestinesi e al loro diritto a una vita dignitosa. Ma, ci dice Ramona Vadi, se la Germania fosse veramente impegnata a consentire ai palestinesi di vivere una vita dignitosa, fornirebbe armi a Israele? E perché l'UNRWA rivendica la neutralità quando è politicizzata come i suoi donatori la costringono ad essere? La solidarietà della Germania è con il modello umanitario che fornisce la necessaria patina di fedeltà politica a Israele. Lo stesso vale per la maggior parte della comunità internazionale. Gli operatori umanitari si stanno rapidamente preoccupando per la propria immagine, intrappolati come sono dai finanziamenti dei donatori degli stessi paesi complici del genocidio. È anormale finanziare il genocidio e gli aiuti umanitari, ma la politica neutrale lo ha reso non solo possibile, ma normalizzato al punto che si può a malapena dichiararne l'illegittimità. Per Israele i palestinesi vengono uccisi in nome della colonizzazione. Il resto del mondo e il suo modello umanitario hanno reso i palestinesi pedine nel loro ipocrita tentativo di salvare l'ultima impresa coloniale. Questa è l'eredità della comunità internazionale e per ciò che verrà ricordata la sua posizione pro-genocidio in nome di un'ideologia che presumibilmente ha giurato di sradicare. E allora, tra l'altro su questa faccenda qua degli aiuti umanitari, della retorica degli aiuti umanitari, delle ONG, dei no profit o profit che siano, indifferente, È uscito, è appena uscito un opuscolo che troverete anche nello spazio autogestito di Via De Rubeis 43 a Udine nei prossimi giorni, a partire dai prossimi giorni, e altrimenti lo trovate su irregolari@inventati.org. Un opuscolo che si intitola Dall'internazionalismo alla solidarietà umanitaria, dove appunto si va a mettere il dito su questa piaga qua. E ci dicono i redattori, intanto nominano una frase del generale Colin Powell, segretario di Stato USA: le ONG sono un moltiplicatore di forza per noi, una parte estremamente importante della nostra squadra combattente. E ci dicono i redattori appunto che diciamo l'obiettivo di questo opuscolo è quello di distinguere la solidarietà politica come gesto individuale e o collettivo da quella apolitica, professionale e filo governativa. E vabbè, loro dicono non ce l'abbiamo specificamente con chi magari raccoglie aiuti da inviare perché pensa che, ma ce l'abbiamo con chi di questa inconsistenza degli aiuti fa un'alternativa di sistema, economie solidali, commerci giusti, no profit eccetera, e o un'occasione di carriera. E inoltre ci ricordano un'altra cosa, che il ruolo della cooperazione, diciamo ridotto in questo momento ai minimi termini perché di intralcio alla logica militare, potrebbe cambiare radicalmente dall'assistenza ad una popolazione privata di tutto ma ancora insediata nella propria terra. I cooperanti potrebbero essere chiamati a una ricostruzione post sfollamento con pochi abitanti rimasti e tanti coloni da allocare, e qua arriviamo appunto a questo meccanismo di aiuti distopico, questo piano, questo meccanismo appunto di distribuzione degli aiuti umanitari, cioè del cibo e dei medicinali, che lo Stato di Israele ha messo in piedi, ha architettato, con la chiara intenzione di gestire la fame invece che di porvi fine, e di rafforzare ulteriormente il controllo sulle necessità più elementari della vita dei palestinesi nella striscia di Gaza, con l'obiettivo appunto di allontanarli il più possibile dalla loro terra. E sostituire diciamo alle zone abitate dei presidi militari, e per poi arrivare appunto alla colonizzazione definitiva. Allora vi leggo questo, la fonte di questa analisi diciamo su questi meccanismi, questo meccanismo di aiuti distopico messo in piedi da Israele, è proprio l'Osservatorio Euro-Mediterraneo per i diritti umani, quindi una fonte super istituzionale. Secondo quanto riportato da fonti israeliane, Israele, in coordinamento con gli Stati Uniti, sta lavorando per istituire un nuovo meccanismo per la distribuzione di aiuti umanitari nella striscia attraverso un fondo internazionale sostenuto da paesi e istituzioni donatori. Nell'ambito di questo meccanismo, l'esercito israeliano costruirà complessi di distribuzione degli aiuti in alcune zone della striscia. Alle famiglie palestinesi sarà consentito l'accesso a questi complessi una volta alla settimana per ricevere un singolo pacco di aiuti a famiglia, la cui durata è prevista per 7 giorni. Una società privata americana gestirà la logistica e garantirà la sicurezza all'interno e intorno ai complessi, mentre l'esercito israeliano si occuperà della sicurezza delle aree circostanti. E chiaramente Israele afferma che questo nuovo meccanismo ha lo scopo di impedire che gli aiuti raggiungano Hamas. Oltre a questo obiettivo, l'obiettivo principale è quello di rafforzare un sistema di controllo totale sulla popolazione civile dell'enclave, trasformando cibo, medicine e acqua in strumenti di estorsione collettiva gestiti da un quadro di sicurezza militare piuttosto che umanitario e legale. Ricordiamo anche che gli aiuti umanitari che vengono dati ai palestinesi della diaspora vengono dati dalla comunità internazionale solamente a quei soggetti o quei nuclei palestinesi che hanno rinunciato al loro diritto al ritorno. Quindi quello che dice Ramon Avadi, che il modello umanitario è mortale tanto quanto il genocidio, è totalmente fondato, perché si danno gli aiuti umanitari appunto in cambio però di una rinuncia alla autodeterminazione sulla propria terra. E, ecco, insomma, questo è importante perché spesso e volentieri è importante ribadire queste cose, perché spesso e volentieri anche, diciamo, la solidarietà che viene dimostrata nei confronti dei palestinesi e delle palestinesi passa attraverso questi modelli equivoci, no? Cioè vengono utilizzate delle parole d'ordine come appunto aspetto umanitario che negano, alla fine negano la lotta di resistenza del popolo palestinese, e non solo del popolo palestinese, di tutti i popoli oppressi e in lotta per la propria liberazione, e legittima il diritto internazionale e tutti gli stati che, tutto il baraccone di stati che appunto hanno creato il diritto internazionale, dei quali anche lo stato genocida israeliano fa parte pienamente, e questo è importante tenerlo presente, non farsi abbagliare dal buonismo, diciamo, di certe realtà che si dichiarano solidali con i palestinesi. We'll be right back. Ultimo praticamente intervento di parole di stasera, perché siamo davvero agli sgoccioli e facciamo solo in tempo a dire che ritorneremo su questo argomento auspicabilmente. Per il momento da parte nostra, da Zardins Magnetics, dall'Assemblea Permanente contro Carcere e Oppressione Friuli Trieste, solidarietà ai compagni e alle compagne che hanno partecipato al corteo di Trieste del 25 aprile scorso, corteo sì, autoconvocato, perché purtroppo bisogna anche specificare che c'era anche un altro corteo di tirapiedi, e il corteo nostro amico è stato caricato varie volte immotivatamente sui giornali di Trieste locali, ma anche quelli locali, diciamo, di fusione regionale hanno sparate, come sempre in questi casi, antagonisti di qua di là, eccetera. Comunque il fatto è questo, che appunto la stampa è stata complice nelle malefatte delle forze dell'ordine di Trieste. Il corteo era stato convocato per raggiungere la risiera, dopo l'emergenza del Covid, è attualmente ogni anno blindata con un numero chiuso di accessi e con, forse l'abbiamo già detto gli scorsi anni, ma lo ripetiamo, un numero fisso di accessi, e alla risiera forse è anche, va detto che cos'è, è un monumento nazionale, si trova nel quartiere, appunto, nel rione di Servola, se non sbaglio. Comunque si chiama Risiera di San Sabba, ed è un campo di sterminio in territorio, all'epoca non lo era perché era territorio germanico, comunque, dato che erano le nostre zone erano direttamente assorbite nel Reich, ma comunque era un campo di sterminio con annesso anche forno crematorio, di cui è rimasto solo la base, perché in fuga i nazi l'hanno fatto saltare. Questo monumento nazionale era da sempre aperto alla partecipazione più ampia nel 25 aprile, dopodiché con discorsi provocatori di certi sindaci, tra cui anche il sindaco di piazza, perché nel senso che ha avuto anche altre giunte anni fa, che riceveva sempre proteste, e comunque ne hanno approfittato le autorità per chiudere appunto l'accesso a questo momento di cui si rende la memoria ai partigiani e agli antifascisti caduti, bruciati, ecco, nella risiera. E il corteo si muoveva da San Giacomo, che è un rione storicamente connotato come popolare, e circa poche centinaia di metri dopo San Giacomo sono stati chiusi da due, sia avanti che dietro, dalla cellere dell'antisommossa, e sono stati anche malmenati. Qualcuno stavolta ha anche risposto e ha bloccato macelli vari. Niente, tempo scorre, quello che andava detto mi sembra che l'ho detto. Per i 25 aprile scorsi ci sono già in corso mi sembra ci sono anche repressioni in corso, ci sono sicuramente, penso che ci siano procedimenti, massima solidarietà ai compagni e alle compagne, ecco, antifasciste di Trieste. So I think there's something else you should know. There's something else you should know. There's something else. There's something else. Ecco, stiamo ascoltando questa band inglese, band che si è formata alla fine degli anni 70, esattamente nel 79, che è più o meno esistita tutti gli anni 80. Si tratta degli inglesi Rubella Ballet, da questo loro 12 pollici EP con solamente 3 brani, uscito nel 1984. Ora, come già annunciato in precedenza, siamo proprio agli sgoccioli di questa trasmissione, che ricordo è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica dagli studi di Radio Onde Furlane da Udine, programma che dura dalle ore 20 alle ore 21:30, come tutti i giovedì, anche oggi 7 maggio 2025. Ricordo che il programma viene condotto dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste. Come sempre vi leggiamo i nostri contatti, se volete scriverci potete farlo tramite posta elettronica scrivendo a liberetutti@autistica.org, ripeto liberetutti@autistica.org, oppure scrivendo in forma cartacea intestando ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste 34121, ripeto Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste 34121. Bene, siamo proprio al termine. Ricordo che potete riascoltare questa trasmissione, ma anche quelle delle volte scorse, nel blog zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Ripeto, zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Quindi un saluto a tutti, appuntamento al prossimo giovedì. Salutiamo chi ci ascolta domani in replica, ovvero venerdì 9 maggio sulle web radio Radio Eustachio alle ore 11 del mattino, e chi nel pomeriggio sull'altra web radio dalle ore 17 Radiazione. Ciao a tutti, al prossimo giovedì vi lascio con questo ultimo brano dei Rubella Ballet.